11:29, bentornati sulle libere frequenze di Radio Blackout. Prosegue la mattinata informativa e anche per questa settimana, con ritardo clamoroso, inizia una nuova puntata di Parole Ribelli. Per questa volta perdoniamo lo sforamento dell'info, perché insomma ci sembrava importante dar spazio al dibattito che si è creato dopo Milano, quindi per questa volta non seguiranno ritorsioni, ma promettiamo che non ci saranno ulteriori ritardo di questo tenore. In ogni caso, un buongiorno a tutti e a tutte voi che siete in ascolto, da Francesca. E un buongiorno a tutti e tutte anche da Eddie. Sì, come diceva Francesca, sicuramente è difficile esaurire il dibattito, ancora il telefono friggeva, sono arrivati anche messaggi dopo la diretta, ma nessuno ha la pretesa di farlo, anzi, questi sicuramente i microfoni di Radio Blackout sono sempre aperti per chiunque avesse qualcosa da dire. Ricordiamo proprio a tal proposito i contatti: 011 24 95 669 per chiamarci, 346 66 73 263 per scriverci e per il servizio CISTI Viaggiare Informati. E allora accorciamo un po' i consueti tempi d'inizio, andiamo subito a presentarvi gli argomenti che tratteremo per la puntata di quest'oggi. Inizieremo con una breve rassegna stampa, in particolare per quanto riguarda la questione della buona università, di cui abbiamo già parlato nelle scorse puntate. Peraltro proprio questa mattina in diverse città d'Italia si stanno tenendo cortei e scioperi lanciati dagli insegnanti contro la buona scuola. Durante l'info è già stato fatto un aggiornamento dalla piazza torinese, che si era appena mossa in corteo. Ci sono anche alcuni compagni delle scuole superiori che sono andati insomma a dare un'occhiata, a partecipare, quindi magari nel corso della puntata li sentiamo per farci dare qualche aggiornamento su come sta andando a Torino, tenendo ovviamente anche un occhio al resto delle città. Poi ci sposteremo a Roma, non perché gli argomenti universitari siano esauriti, ma per una questione anche logistica di chi andiamo a sentire, per parlare un po' di quello che è accaduto ieri a Torre Vecchia, nello snodo del Bronx cosiddetto, diciamo una delle borgate romane, anzi quello del Bronx figlio, diciamo, della borgata romana adiacente, e dove ieri abbiamo visto una giornata di resistenza popolare a uno fratto che doveva essere eseguito, che ha generato poi un presidio permanente. Allora andremo a sentire compagni e le compagne che erano presenti ieri per farci raccontare un po' questa giornata. E tornando invece poi più verso l'ambito universitario, senza ovviamente l'intento di erigere insomma paletti tra un ambito e l'altro, però ci sposteremo appunto di nuovo in zona universitaria, sentendo i compagni e le compagne di Bologna in riferimento a un episodio accaduto ieri. Diversi studenti del collettivo universitario autonomo si sono visti recapitare delle lettere che annunciano dei provvedimenti disciplinari da parte dell'università in relazione a una serie di momenti di lotta, di controinformazioni, di iniziative tenuti dentro l'Ateneo, quindi insomma andremo un po' a farci raccontare, soprattutto a commentare l'episodio, che comunque insomma costituisce un precedente non buono per chi ogni giorno insomma si attiva all'interno delle mura universitarie. E infine, ovviamente per quanto riguarda invece l'Università di Torino, continueremo a dare aggiornamenti sulla vicenda dell'amianto. Ci sono nuovi appuntamenti in cantiere di qui ai prossimi giorni, non sappiamo ancora se faremo una diretta visto che il tempo a disposizione è un po' limitato, ma avremo sicuramente cura comunque di ricordare appunto gli ultimi aggiornamenti e gli appuntamenti di mobilitazione e confronto dei prossimi giorni. Direi che facciamo una brevissima pausa musicale, poi iniziamo con la rassegna stampa. Ho solo un sogno, me lo tengo stretto in mano. Quelli nel cassetto li hanno presi gli scheletri nell'armadio. Sempre meno voglia di sprecare fiato. Sempre questa gente che confonde apparenza e significato. Mi chiedi perché fumo, coloro il mio respiro. È solo un modo per vederlo e sapere che ancora vivo. Quando scrivo scendo nel profondo, perché sa di poco il cielo se non hai mangiato prima la sabbia dal fondo. Lotto giorno dopo giorno in eterno. Un uomo giusto in questo mondo è un pompiere all'inferno. Imparo a stare a tempo solo per vincere il tempo. Ti imparo a essere stronzo, che l'uomo parla quel cerco e dentro ho due esseri incompiuti. Ucciso l'uno dei tanti e nutrito l'uno fra tutti. Cambi, sono cambiato tanto perché in tempi cupi un cane abbandonato impara a crescere dai lupi. Potresti ti dare sta rabbia, ma è le orme dei miei passi sulla sabbia. Ne avessi la speranza, io giuro te lo direi. Non credere in nessuno, diventa quello che sei. Potessi ti darei sta rabbia, ma è fana come le orme dei miei passi sulla sabbia. Ne avessi la speranza, io giuro te lo direi. Non credere in nessuno, diventa quello che sei. Diventa quello che sei. Io dico, si deve avere ancora del caos dentro di sé per poter generare una stella che danza. Alzo il volume a 103 finché non scartino le porte. La musica è l'unica che cura con le botte. Io lascio che picchi forte. L'inchiostro nero fa da sangue quando l'anima vuole sgorgare a flotte. Il modo che ho trovato è morire per farmi forte. Esplotene, supernova, la luce la fa la notte. Rinnova il mio buon karma, non punto a darti le risposte. Guarda, ma i giusti punti di domanda. So che nulla basta, l'esperienza è materia, s'aggrega fino a farti vero quanto basta. L'anima di un gigante latita fra la carta, chi vive non ha tempo, chi ha tempo non vive, parla. Quante quelle cose che ho perso, che ogni fottuta volta dare il sangue era il prezzo, che ogni fottuta corsa si blocca in un compromesso. Non conta battere gli altri, ma vincere te stesso. Potessi ti darei sta rabbia, ma è fana come le orme dei miei passi sulla sabbia. Ne avessi la speranza, io giuro te lo direi. Non credere in nessuno, diventa quello che sei. Diventa quello che sei. Potessi ti darei sta rabbia, ma è fana come le orme dei miei passi sulla sabbia. Ne avessi la speranza, io giuro te lo direi. Non credere in nessuno, diventa quello che sei. Diventa quello che sei. Allora, 11:36, iniziamo con questa puntata di Parole Ribelli. Come abbiamo annunciato prima, andiamo a fare due parole su questo annunciato progetto di riforma da parte del Partito Democratico della buona università, che dovrebbe insomma avviarsi con l'autunno. In realtà sulla falsa riga di quello che già è stata la riforma della buona scuola, il Partito Democratico, che ama insomma darsi questa verniciata di confronto, di democraticità e bla bla bla, aveva annunciato una serie di consultazioni con tutte le parti coinvolte, quindi docenti, ricercatori e studenti, in cui discutere appunto le linee guida di questo progetto di riforma. La cosa interessante che viene evidenziata da un articolo di Roars, che in realtà è di qualche giorno fa, comunque lo trovate facilmente su roars.it, e che in realtà questa cosa delle consultazioni si conferma ancora una volta assolutamente una farsa e una presa in giro. L'articolo infatti titola in maniera abbastanza emblematica: buona università, il PD prima scrive le conclusioni e poi ti ascolta. Il primo momento di dibattito appunto su questa buona università doveva essere quello che si è tenuto lo scorso 26 febbraio nella sede nazionale del Partito Democratico a Roma. La cosa che viene insomma invece messa in luce da questo articolo è che, se si confronta quello che è il documento uscito da quella prima consultazione con un altro file che invece risale addirittura a gennaio, quindi a ben più di un mese prima di questa consultazione, che era stato redatto proprio da uno dei sottosegretari agli affari regionali del PD, Gian Claudio Bressa, si nota che i due documenti sono praticamente identici. Quindi appunto questa fantomatica consultazione di febbraio, di cui peraltro insomma ci sarebbe un po' da vedere anche quanto sia stata rappresentativa delle vere esigenze insomma dell'università attuale. Probabilmente ci immaginiamo saranno intervenuti rettori e baroni, che da anni si confermano quanto di più distanti da quello che accade poi quotidianamente tra le mura universitarie. Peraltro un dibattito che si è tenuto nella sede del Partito Democratico, quindi insomma ci immaginiamo quali possano essere gli spazi di confronto in una situazione del genere. Ma non solo, appunto, la presa in giro, che appunto quello che è uscito da quell'assemblea ricalca parola per parola quello che in realtà era già il documento stilato dal PD più di un mese prima. Quindi ci sono delle differenze veramente minime che vengono evidenziate nell'articolo. che riguardano la parte sulla pubblica amministrazione, ma per il resto appunto i due documenti sono esattamente uno il copia e incolla dall'altro. Quindi questo è insomma lo spirito con cui parte questa buona università, appunto questa cosa delle consultazioni si conferma insomma uno spazio di confronto assolutamente fasullo e inesistente, come peraltro è stato appunto con la buona scuola. Queste millantate consultazioni in realtà hanno trovato si sono risolte in un nulla di fatto, e dall'altra parte invece le proteste comunque anche consistenti che sono andate avanti per tutto l'autunno da parte di studenti e insegnanti sono insomma difficilmente sono arrivate alle orecchie del Partito Democratico, che le ha ignorate bellamente. Quindi insomma questo ci sembra abbastanza emblematico. In ogni caso, per quanto riguarda questa questione della buona università, appunto queste linee guida sono già facilmente reperibili online, di cui all'autunno insomma sarà compito anche nostro iniziare un po' a smontarle, evidenziarle, a metterne in luce punti di critica, di modo da farsi trovare già attrezzati nel momento in cui questa ennesima riforma del mondo accademico dovesse effettivamente prendere piede. Quindi niente, sembrava interessante segnalare questo articolo, lo trovate facilmente online, adesso lo pubblichiamo anche sulla nostra pagina Facebook. Facciamo una pausa musicale, poi andiamo a metterci in contatto con i compagni e le compagne di Roma. Ma tormento col caldo che mi stressa e la tempesta che mi scoppia dentro. Più faccio il pago e più ci penso, eppure mi lamento meno quando sono triste di quando contento. Guardo le scale e poi le scendo, ogni gradino lento, tengo il tempo con la testa e con la musica che sento e che ho dentro. E per questo qua ci sta quello che mi tiene sveglio dentro a questo testo. Ma la strada scivola sotto le mie ruote in questa notte, con la casa, con le stanze troppo vuote, troppo poche le mie rotte nuove. Giro per strade sempre uguali, con la radio che mi spinge canzoni d'amore. Un beat lento che mi porta altrove, mi leva dalla testa i miei pensieri brutti e mi dà buone nuove. Con le parole curo il cuore, la terapia sta nelle lettere e nella faccia di chi non le vuole. Apprezza il mio lato peggiore, restiamo pari, vestiamo stessi panni, gli stessi danni amari. L'amore è specchio dei difetti e mostra quanto vali. Io ho gli armadi con gli spettri nei reparti vari. Apprezza il mio lato peggiore, restiamo pari, vestiamo stessi panni, gli stessi danni amari. L'amore è specchio dei difetti e mostra quanto vali. Io ho gli armadi con gli spettri nei reparti vari. Io l'ho capito già da bimbo, ti mettono in un limbo artificiale, così eviti di farti male. Ma tanto è uguale, le spalle da guardare, attento a come cadi, attento a come accade. Anche da grande è un'altalena su cui giocare, ma ad oscillare fra gli scleri del settimanale e l'alternarsi di una vita dolce e bastarda ai mezzi. Oggi il mio sorriso non lo farà pezzi. Quando è facile ti chiamo e abbiamo quattro frasi con le quali sorridiamo. Metto via i soldi e i sogni in una scatola, andiamo. Magari, ma ogni volta ci ho pensato e non è stato vano. Poco in mano e che ci faccio? La mia vera faccia la gente non la vede se gli passo accanto. Mille vite e pochi sbocchi, il vero è nei discorsi da ubriachi e quando parli con lacrime agli occhi. Apprezza il mio lato peggiore, restiamo pari, vestiamo stessi panni, gli stessi danni amari. L'amore è specchio dei difetti e mostra quanto vali. Io ho gli armadi con gli spettri nei reparti vari. Apprezza il mio lato peggiore, restiamo pari, vestiamo stessi panni, gli stessi danni amari. L'amore è specchio dei difetti e mostra quanto vali. Io ho gli armadi con gli spettri nei reparti vari. Un altro giorno mi saluta, prima che si chiuda, mi dà un colpo sulla nuca se mi do la fuga. Un'altra ruga sulla faccia, a caccia per le strade, con il caldo dell'estate che minaccia. Tengo il tempo sulla traccia, prima che m'arrendo. Dovete rompermi la faccia, prima che mi stendo. Sempre meno credo e sempre meno sento, se il tempo è degli stronzi come tanti in cima al mondo. È il tuo sorriso che mi piace, che mi uccide lento. Urla al vento sottovoce senza che lo sento. Corre sotto il pavimento della casa, entra dentro la mia testa già invasa per uscirne illesa. Pesa l'aria, il tempo e la sua storia, la noia sulla stessa traiettoria che tutto si ingoia. Gli stessi panni, gli stessi danni dentro fanno un buco sulle note della melodia che sento. Apprezza il mio lato peggiore, restiamo pari, vestiamo stessi panni, gli stessi danni amari. L'amore è specchio dei difetti e mostra quanto vali. Io c'ho gli armadi con gli spetti nei reparti pari. Apprezza il mio lato peggiore, restiamo pari, vestiamo stessi panni, gli stessi danni amari. L'amore è specchio dei difetti e mostra quanto vali. Io c'ho gli armadi con gli spetti nei reparti pari. Secret Service was threatening me serious. Checking my sundial on my way across the Nile when these women in hijab started clocking my style. I'm walking like an Egyptian, focused on my mission. Rendezvous with the crew at the falafel kitchen. We making plans to get over the Rafah border. Had to see the consulate to get our papers in order. Rocking my kafia on my way to Alexandria. Shoddy, your man Sewer's playing in my ear. Secret agents in the rear, so conspicuous. If they thought they wasn't being seen, they ridiculous. They tried to stop us at the Suez Canal. They held us up for a while, then we were back on our route. And if they think they can stop us, don't even bother, 'cause we gotta get there 24 hours in Gaza. The situation was clearer, it was prime time. Felt like I was watching Al Jazeera. The gate closed behind me in the mirror. I was shocked, all the people they stopped. Couldn't watch, my mouth dropped. Immigration tried to give us a demonstration of power, so they took our passports. We waited for 5 hours. I just thought about the people locked in on the other side. An embargo was a war, an attack on our lives. We made it through, the tension was building. Families reunited and hugging their children. Press conferences, politicians, cameras in position. Flags waving everywhere, oh what a vision. We jumped in the bus, paraded around town. Everybody's so excited, settle down. This the last place they want me inside of. 24 hours in Gaza. I'm out of my dreams, everything so clean, but my homie building was bombed by F-16. Me and Cynthia McKinney was rolling through all the hoods. Everybody so friendly and it felt so good. The situation was bad as far as my comrades go. They need assistance at the hospital, so we joined the caravan that was led by Charles Barron. His leadership was right on time and so daring. The supplies they were carrying reached their destination. There was box after box for the doctors and the patients. Hip hop was in the air, you could feel it everywhere. It was Palestinian rappers, kicks and snares, and a big shoe crying to Nancy. From a distance is resistance, I can see freedom in the distance. .48 sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250. E allora andiamo avanti con la mattinata informativa e con Parole Ribelli. Come dicevamo in apertura di puntata, andiamo a Roma a sentire un po' cosa è successo ieri durante l'opposizione allo sgombero di una casa popolare che ha dato appunto vita a quella che è stata una vera e propria giornata di resistenza e di lotta soprattutto. Siamo in diretta con Valeria. Valeria, ci senti? Sì, ti sento. Alza solo un po' la voce così ti sentono anche gli altri. Ti sento, risento. Ok, grazie mille. E, Valeria, appunto, tu ieri eri a Torrevecchia, diciamo la mattinata è cominciata con il presidio, con un consueto picchetto di opposizione allo sfratto. Ricordiamo un po' che dove si situa il qual è il contesto in cui ci muoviamo, quello del Bronx, che è un quartiere popolare sulla via di Torrevecchia. Nello specifico pochi casermoni, due casermoni che si guardano e che di fatto sono stati anche edificati dopo la rivolta di San Basilio in risposta a quella che era l'emergenza abitativa in quel periodo. Ecco, da architetture al servizio di chi voleva sedare lo spirito conflittuale nato da questa esigenza, bene, ieri si sono dimostrate invece alleate di chi oggi continua a lottare per quello stesso diritto. Raccontaci allora un po' la giornata, Valeria, un po' la composizione, quella appunto che sono stati gli sviluppi, le mosse della controparte e soprattutto come si è deciso di continuare ad andare avanti e rilanciare. Sì, allora, innanzitutto il Bronx è un quadrato di terra che si trova in fondo alla Torrevecchia, un quartiere situato a nord-ovest della capitale e in periferia. È un cosiddetto PP, cioè una di quelle architetture nostrane che un po' ricorda lo stile, no? L'unità d'abitazione di Le Corbusier. Questo quartiere è un quartiere molto particolare, nel senso che da sempre, insomma, è un quartiere dove avvengono queste cose, dove insomma esplode la rabbia, cioè non è insomma la prima volta che succede una cosa del genere, ma sono tutti gli anni, insomma, per alcuni avvenimenti, insomma, arriva il momento in cui avviene qualcosa, insomma. Questa volta però, insomma, non ci siamo fatti cogliere impreparati. Infatti gli abitanti proprio dello stesso quartiere, ovvero la stessa Antonietta, la donna che è stata sfrattata ieri, aveva, una volta ricevuto la lettera, provato a contattare lo sportello di Valle Fiorita, che è lo sportello contro gli sfratti, che è seguito dall'abitazione del coordinamento e seguito dai compagni di zona. Da lì si è provato a resistere una prima giornata a fare questo blocco dello sgombero, cosa che effettivamente era avvenuta senza particolari problemi, poiché la polizia si era fatta trovare in qualche modo impreparata e quindi è stata costretta la prima volta in qualche modo a cedere il passo e ad andarsene. Ieri mattina ci si era dati appuntamento alle 7 del mattino per fare questo ennesimo picchetto, con la consapevolezza però da varie voci che comunque in qualche modo questa volta questo sgombero sarebbe stato effettivo e che quindi in qualche modo dovevamo organizzarci per provare a rallentarlo. Noi alle 7 del mattino eravamo una quindicina, siamo stati allontanati, il picchetto non è riuscito a resistere in qualche modo all'imponente schieramento che ci si è trovati di fronte. Siamo arrivati che già era presente nelle strade vicine la municipale con altri ausiliari del traffico e altri operatori. Tempo 10 minuti, sono arrivati addirittura 3 blindati da cui sono scesi comunque i cellerini già pronti, insomma, per in qualche modo respingere quella che poteva essere un momento di resistenza proprio davanti all'accesso della sua abitazione. Da lì tempo un'ora si tratta comunque di lotti molto bassi che si riversano all'interno di un cortile, dal momento che comunque la stessa Antonietta si trovava affacciata al balcone, ha iniziato a urlare eccetera, si è iniziata comunque ad avvicinare tutta la gente del quartiere, si è iniziata a svegliare, ha portato a scuola i figli, dopodiché si è avvicinata al picchetto antisgombero e ha partecipato con noi a questa giornata. E la partecipazione del quartiere è stata molto, molto grande, nel senso si parla comunque di si toccano più di 100 abitanti, cioè nel senso è stata una giornata molto popolare, perché comunque è stata una giornata dove sono stati gli stessi abitanti, insomma, ad avere in qualche modo il polso della situazione e il diritto di resistenza, nel senso che la cosa che è stata molto, secondo me, molto positiva di questa giornata è che in qualche modo erano gli stessi proprio abitanti del quartiere che andavano a parlare con la polizia, andavano a controllare, insomma, come stava Antonietta, andavano a prendere a calci i Cellerini, andavano se no a rilasciare interviste per spiegare la loro rabbia in qualche modo, perché è un quartiere totalmente abbandonato, una striscia di terra in qualche modo che si trova anche molto lontana dal municipio di cui fa parte. Parliamo di un municipio che accoglie più di 200.000 abitanti e da sempre il Bronx comunque non viene mai calcolato in qualche modo, è sempre relegato lì all'angolo, cioè si trova molto distante poi da quello che in realtà è appunto il municipio Aurelio, non è insomma all'interno dello stesso quartiere. E la giornata è stata una giornata molto bella perché in qualche modo ha visto l'organizzazione, la voglia di organizzarsi degli abitanti che da subito hanno provato in tutte le maniere possibili a resistere a questo sgombero, e alcuni ponendosi appunto già dall'inizio, una volta che sono arrivate le prime donne che avevano accompagnato a scuola i loro figli, già da subito loro si sono poste come obiettivo quello di ritornare davanti all'ingresso della casa di Antonietta, e quindi sono salite su al primo piano di questo ballatoio e hanno iniziato a spintonare chi si trovavano di fronte, quindi dirigenti delle forze dell'ordine così come Cellerini, per provare a farsi strada e ad andare a sostenere da più vicino Antonietta. E nel frattempo il figlio di questa signora con un altro suo amico saliva sul tetto per minacciare, insomma, di gettarsi giù e provare a rallentare ancora di più questa operazione. Mentre succedeva tutto questo, un altro gruppo di solidali, insomma, andava invece a bloccare via di Torrevecchia, che è una via molto importante che collega due grandi arterie di questa città, collega da un lato via Boccea, una via molto trafficata che parte dalla città ma che arriva fino a Bracciano, con invece via Trionfale e l'ingresso della Tangenziale, quindi due grandi strade molto trafficate che sono state bloccate per più di 4 ore in qualche modo. All'inizio si è cercato, gli abitanti hanno iniziato a ribaltare i cassonetti in mezzo alla strada e in qualche modo rendere visibile, no? Cioè fare esprimere la loro rabbia e in qualche modo renderla visibile a tutto il quartiere. Questa cosa è stata molto importante perché in realtà ha permesso a tante persone di avvicinarsi, anche chi si trovava all'intorno in qualche modo è venuto, che magari stava lavorando, parliamo di operai, di meccanici che si trovano all'intorno e che a un certo punto hanno deciso in qualche modo di partecipare anche loro a queste azioni di resistenza. Nel frattempo veniva dato fuoco a un altro cassonetto che faceva parte di un altro blocco che si trovava dall'altro lato della strada e questa è una prima parte, dopodiché insomma un po' anche perché in qualche modo il fatto di spiegarci per così tanto tempo intorno al quartiere un po' ci aveva anche fatto perdere il polso della situazione su come stava andando avanti questo sgombero, che non è stato possibile fermare in qualche modo una volta che l'accesso delle forze dell'ordine era avvenuto, dal momento che nonostante avessimo chiamato in qualche modo le istituzioni anche a farsi carico di questa cosa, le prime chiamate al municipio sono arrivate alle 7 del mattino e i consiglieri del municipio sono arrivati alle 9:30, che lo sgombero insomma era già stato in qualche modo eseguito, cioè che Antonietta già si ritrovava sulle scale, il fabbro aveva già aperto la porta e cambiato la serratura, Sì, diciamo, da quello che sappiamo, anche gli altri grandi assenti sono l'unione degli inquilini. Esatto, questa è un'altra storia. Insomma, Antonietta aveva pagato all'unione inquilini, aveva dato dei soldi per un avvocato che si doveva seguire la sua insomma storia, la sua vicenda. Invece l'unione inquilini non solo non si è presentata, non solo non ha detto nulla in questi due giorni, ma solo ora escono delle dichiarazioni in riguardo, ma nemmeno si è preoccupata, insomma, dal punto di vista proprio umano, visto che comunque Antonietta è una signora che loro hanno seguito per tanto tempo, di preoccuparsi poi effettivamente di come stava, cioè, visto che comunque continuavano a arrivare notizie di donne ferite, di persone che avevano sbattuto la testa, di ambulanze che continuavano ad andare e tornare dal Bronx. Nemmeno si sono preoccupati neanche di sentirla e di sentire che cosa era successo. Insomma, una volta che appunto, ti dicevo, siamo ritornati nei pressi della casa per vedere come veniva portato avanti questo sgombero, ci siamo resi conto che da un lato il furgone ormai era pronto quasi per partire, che le cose di Antonietta erano state tutte scatolate e infilate all'interno di questo grande camion, e che il camion si appressava a partire. Premetto il fatto che intanto, appunto, con questi consiglieri di zona si era provati in qualche modo a tentare di rallentare ulteriormente questo sgombro, in quanto almeno per capire in qualche modo qual era intanto l'alternativa, perché in tutto ciò chi ha diretto in qualche modo, ha gestito la giornata, l'operazione dello sgombero di ieri, non si interfacciava in alcun modo né con noi compagni né con la popolazione presente. E anzi ha fatto di più: nel momento in cui sono arrivate le istituzioni non ha voluto dialogare neanche con loro, cioè non ha voluto dare spiegazioni neanche ai consiglieri di zona e al municipio, nel senso si sono rifiutati proprio di parlare anche con il municipio, la questura non ha voluto parlare con nessuno in qualche modo. E questa cosa è stata molto grave, perché noi non riuscivamo ad avere il polso della situazione, non riuscivamo a capire quali erano intanto le alternative che venivano date a Antonietta, alternative che erano state promesse, che continuavano a essere millantate dalle stesse forze pubbliche, ma che invece non ci sono, cioè non sono state date alternative a questa signora. Quindi intanto ci siamo posti di fronte a questo problema, abbiamo deciso intanto di bloccare, insomma, la partenza di questo camion. Questo camion che doveva partire alle 10:30 e che invece è partito semplicemente perché è partito soltanto alle 2 del pomeriggio. E questo camion è stato più volte fermato, nel senso che una volta che hanno provato a farlo partire con una carica d'alleggerimento, insomma, di contenimento di quelle persone che si trovano proprio di fronte ad esso, e sono riusciti a farlo spostare, a farlo partire, di poco in poco avanzava in una maniera molto particolare, perché avanzava comunque scortato e circondato da cellerini questo tir, e avanzava, parliamo di 50 metri che ha fatto in più o meno 4 ore. Oltre alle grida e le infamie che venivano comunque rivolte a questo lavoratore, perché c'è, nel senso, per quanto poi si continuiamo a dire che ok, non c'è lavoro e quant'altro, detto ciò tu hai scelto comunque di lavorare all'interno di un'operazione di sgombero, hai scelto comunque di fare il facchino per questi sgomberi e di lavorare sulle spalle, insomma, della gente che perde casa, quindi veniva naturalmente insultato, veniva beffeggiato questo lavoratore. E a un certo punto, infatti, lui stesso si è trovato molto in difficoltà e ha dovuto cedere in qualche modo, è sceso dal camion, si è rifiutato di portare avanti questa operazione, ha detto esplicitamente che evidentemente non ne valeva proprio la pena prendere due lire in più, arrivare a trovarsi contrapposto a un intero quartiere di gente che probabilmente gli assomigliava molto, cioè nel senso lui si ritrovava in qualche modo molto anche dall'altro lato, insomma, della barricata, dal lato della gente che resisteva a questo sgombero e che non voleva che le sue cose venissero portate via. Quindi ha deciso di scendere dal camion e al suo posto invece è salito lo stesso dirigente di piazza. Nella sua follia, dopo aver minacciato, dopo aver preso a calci le signore, dopo aver deciso di non dialogare, di utilizzare semplicemente la forza e la sua infamia, insomma, come gestione dell'ordine pubblico in un quartiere comunque molto particolare, in un quartiere popolare come quello del Bronx, ha deciso di mettersi lui stesso alla guida di questo camion, cosa che ha provocato comunque anche un ferito. Una signora che si trovava lì nei pressi del camion si è trovata praticamente investita, cioè nel senso è caduta a terra per colpa di questo verme, insomma, che ha deciso che con il manganello in mano e con il casco blu in testa si poneva alla guida di questo camion. Quello che abbiamo deciso di fare dopo, insomma, una volta che questo camion era, nonostante i rallentamenti, nonostante insomma i continui blocchi stradali che venivano inscenati sulle strade e che proseguivano di 5 metri in 5 metri per ore, abbiamo deciso che una volta che insomma era tutto finito, che quella casa insomma era impossibile tenerla in qualche modo, abbiamo deciso di fare un'assemblea. Quindi ci siamo messi sotto la sua stessa casa, abbiamo deciso di aprire delle tende che sono rimaste aperte fino insomma a questa notte, e abbiamo deciso di montare su un presidio che parlasse con il quartiere, perché comunque fra una cosa e l'altra nella giornata di ieri veramente tutto il quartiere, da chi si era affacciato ai balconi, da chi purtroppo era andato al lavoro e quindi non poteva partecipare alla resistenza, è passato nel pomeriggio, è passato la sera, è venuto a chiedere informazioni, è venuto insomma a spiegare anche la sua situazione, perché parliamo veramente di centinaia di lettere che sono arrivate su quel quartiere di questi sgomberi, parliamo di un quartiere le cui case popolari sono molte state occupate, cioè parliamo veramente di situazioni limite, parliamo di donne che magari lavoravano con anziani che sono morti e a cui sono subentrati. Parliamo comunque di una situazione del genere, quindi l'assemblea è stata molto partecipata. Questa assemblea ha deciso oggi di riconvocarsi e di andare insomma a gridare la propria rabbia e a chiedere in qualche modo anche delle spiegazioni e delle prese di posizione da parte del municipio, perché in tutto ciò il municipio non è riuscito per ora a fare nulla, nel senso non il servizio sociale non ha detto nulla il municipio, non ha detto nulla il presidente, la giunta ancora non si è espressa. Noi vogliamo che comunque questa cosa non passi liscia, nel senso che in qualche modo che sia di lezione questa cosa, che servi di lezione allo stesso municipio. Questo municipio non può, non deve in qualche modo far passare così questa cosa, non può far avvenire questi sgomberi all'interno del suo quartiere e pensare che questo passi liscio, nel senso in qualche modo deve prendere posizione e decidere da che parte stare. Sì, sicuramente si registra un vuoto gestionale, esatto. O meglio un passo indietro rispetto alla componente istituzionale politica e un passo avanti rispetto invece a quella diciamo a quella poliziesca. Abbiamo, esatto. Ormai è abbastanza all'ordine del giorno. Esatto, insomma. Abbiamo visto cronache in tutte le città rispetto a questo tipo di gestione, abbiamo visto che non è mai di fatto l'organo preposto a prendersi in carica le responsabilità dell'emergenza abitativa, l'abbiamo visto le varie, diciamo nel momento in cui vari comuni, soprattutto quello di Torino in questo momento, all'emergenza abitativa risponde con il social housing, che di fatto leva soldi all'edilizia popolare. Non è la risposta per nessuno, anche perché non è diciamo, non è costruire nuovi tempi dell'assistenzialismo a ridare una vita dignitosa alle persone, bensì processi di autodeterminazione, di lotta e appunto di riconquista di ciò che è nostro, come quello andato in scena ieri a Torre Vecchia. E infatti la cosa molto interessante di questa cosa è che comunque, nonostante in questi quartieri si respiri un razzismo in qualche modo latente, visto che comunque la guerra fra poveri, no, che in qualche modo è stata voluta dal governo, sta andando avanti, cioè nel senso effettivamente sta prendendo piede in qualche modo all'interno dei quartieri popolari. In realtà poi ieri, parlando con le persone, spiegandogli anche qual è la situazione della città di Roma, dove ci sono 200.000 alloggi sfitti a fronte di soltanto 40.000 richieste di un alloggio popolare, insomma anche lì si è calmata, cioè nel senso che le persone hanno capito in qualche modo da che parte stare, contro chi schierarsi, hanno capito che in qualche modo non è schierandosi contro quello più povero di lui, più debole di lui, che si risolvono le situazioni e che si otterranno veramente delle conquiste, ma che invece bisogna andare a dare conto di questi problemi e di queste insufficienze a chi ci governa, ai padroni, e quindi chiedere le responsabilità proprio a loro, nel senso che non è nel migrante, perché qua parliamo di una famiglia egiziana che si trova nella lista per le case popolari del 2001, che subentrerà a questa casa. Il problema non sono loro, il problema non sono questi migranti che hanno fatto richiesta di alloggio popolare, il problema non è questo, il problema è chi ci governa, il problema è chi ha scelto di mettere lì in quella casa proprio questa famiglia, nel senso che è una cosa studiata in qualche modo a tavolino, nel senso per provare a scatenare la guerra fra poveri all'interno di quel quartiere, provare a creare una nuova Tor Sapienza, così da non dover più gestire questo problema degli sgombri, da non dover più gestire quello e invece lasciare che sia tutta un'altra la dinamica che si metta su in piedi. E questa è una cosa molto importante, perché in qualche modo ha bloccato già da ieri questo tentativo di in qualche modo discriminazioni, questo tentativo di razzismo, dal momento che lo stesso presidio delle 7 del mattino era un presidio miticcio, era un presidio che coinvolgeva le occupazioni di zona, che sono state addirittura applaudite la mattina stessa e che venivano tutto il tempo ringraziate dagli abitanti. E niente, dopo la giornata di ieri abbiamo deciso quindi di riconvocarci oggi, e questa cosa andrà avanti, nel senso che dopo la giornata di oggi noi abbiamo intenzione, dopo domani, di fare degli altri banchetti all'interno del quartiere, e l'idea è quella comunque di riconvocare alcune assemblee pubbliche in attesa di riuscire in qualche modo a costruire invece un vero e proprio comitato di quartiere che riesca in qualche modo a far fronte a questa nuova dinamica che si sta mettendo in scena al Bronx, che è quella dello sgombero delle case popolari, riuscendo in qualche modo a dare una risposta organizzata e che sia realmente partecipata, in cui siano gli stessi abitanti a farsi carico di questo problema e a trovare tutti insieme una soluzione. Bene Valeria, grazie mille. Sicuramente i microfoni di Radio Blackout rimangono aperti per gli sviluppi, diciamo, eventuali, che speriamo ci siano nei termini che proprio tu stessa auspicavi. Grazie mille, grazie di questo resoconto, di questo racconto. Ci si aggiorna, soprattutto buona giornata di presidio, buona giornata di lotta e appunto speriamo di continuare a sentire notizie sempre più positive. Grazie a voi, mille. Un abbraccio, ciao ciao. Sì, come appunto diciamo siamo andati lunghi perché appunto ci sembrava importante anche forse rispetto in maniera alla lontana, senza voler forzare nulla, però sicuramente anche quella di ieri è una dimostrazione del fatto che difficilmente la rabbia si esprime in maniera composta, in maniera imbrigliabile dall'inizio. Abbiamo visto che appunto ci sono poi processi che si danno in maniera molto spontanea e soprattutto, ecco, la cosa che ci tenevo un po' a sottolineare è che poi di fatto diventa molto importante fare occhio ai comportamenti piuttosto che ai discorsi forse delle persone, soprattutto in situazioni come possono essere appunto quelle delle periferie, perché poi sappiamo benissimo che c'è una sinistra che dice di stare dalla parte degli ultimi, non ha mai visto la povertà neanche in cartolina, il disagio e tutta una serie di cose che altri invece scontrano tutti i giorni. C'è chi dice è tutta colpa dei negri, ma non farebbe morire di fame nessuno e dividerebbe il pane con chiunque accanto. Quindi sempre attenzione un po' al fatto che comunque le categorie concettuali con cui ci esprimiamo poi di fatto non necessariamente rispecchiano il comportamento con cui poi abitiamo nel mondo e con cui poi ci interfacciamo agli altri nella quotidianità. Modello Nexus 6. Artificial Kid. Data di emissione 2016. Modello da combattimento. Ottimale. Autosufficienza. Probabilmente il leader. Sfoggio lo stile che vorresti ma non ci riesci. Vuoi chiamarmi brother come Big Takeshi? Viaggio sotto un loop con i suoni per cui flash. MC, sei nel mio Hypercube e da qui non esci. Meglio che ricalcoli ogni mossa. Sei nella città proibita, questa è la zona rossa. Dite gli alfaggiano che è meglio che si sposta. So cazzi, sì, oggi si esce. Cazzo grossa, dal futuro prossimo. Spingo per il massimo, con un suono ostico. Dall'effetto caustico, mastico e trito carne. Colleziono attrito, MC, sotto i miei denti qui non ho ancora finito. Mando segnali come luci nella nebbia. Sabbipo di nascosti nella sabbia. Anticorpi in terra infetta. Toccato in fretta. Armatura come mura perché tutta sta cultura sia protetta. Ah, il numero basta e ce lo sai. Quando calo giù e attacco in massa combattenti dai. Stringo i denti e vai e sia l'inizio della fine. Quattro comandi, motori caldi. Giù nel vuoto sgancio mine e lancio rime. Non ci si arrende, no surrender. Meteoriti quindi sugli scudi alla defender. Poco lock in ferro tender. Sì, ma l'arsenale che fa muovere la testa di Airbender. Hypercube Black, pure Alex e Flex. Oggi è giorno di caccia di Rex. E adesso siete tutti quanti avvisati. Tutti. E adesso siete tutti quanti avvisati. Hypercube Black, pure Alex e Flex. Oggi è giorno di caccia di Rex. E adesso siete tutti quanti avvisati. Tutti. E adesso siete tutti quanti avvisati. E qui saremmo sempre come il 3, mai pari. Hai la testa dura, io ho testate nucleari. E rime ognuna da 21 grammi. Quindi mami, o accani, o è meglio che tempari. Che io sarò lo spirito santo, l'angelo della vendetta. La spina nel fianco, uccidi pure un mio. E che miei ne risorgono altri 4 che ti fanno il culo come un quadro astratto. Questo mondo è sfatto e da retta solo ai matti. Oggi che anche più facciani giocano ai coatti. Tutti gaggi in cerca di ingaggi e di lingotti. Sì, ma c'ho quello che mi serve per proprio fare. Botti. Chiuso a botte quando scendo bardato. Con rap car armato io parto e distruggo. E sei nel mio tracciato eri stato avvisato. Zio, questo è toro scatenato elevato al cubo. Hypercube Rack, pure Alex e Flex. Oggi sono di caccia di Rex. E adesso siete tutti quanti avvisati. E adesso siete tutti quanti avvisati. Hypercube Rack, pure Alex e Flex. Oggi sono di caccia di Rex. E adesso siete tutti quanti avvisati. E adesso siete tutti quanti avvisati. E quando sono le 12:17 facciamo una breve pausa, soprattutto uno stacco dalla consuete sonorità hip hop di Parole Ribelli, ma esaudiamo volentieri la richiesta musicale che ci viene fatta da Diego e ne approfittiamo ovviamente per mandare un saluto e un abbraccio a tutti i nostri compagni e compagne che sono reclusi o esiliati qua e là dopo l'ultimo giro di misure che hanno anticipato il 1 maggio, quindi un abbraccio a Stella, a Luca, a Daniele, a Silvestro, a Diego, a Pablo, non ci siamo, a Francesco e Costanza, sì, ogni volta ricordarsi tutti, ma siete troppi, ma insomma ci auguriamo di riavervi tutti qua nei paraggi liberi e tranquilli di muovervi, e in ogni caso questo è pezzo per Diego e tra pochissimo poi torniamo in diretta con il collegamento da Bologna. E dedichiamo il pezzo a Diego e il testo agli sbirri infami. E 21, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout, siete sempre all'ascolto di Parole Ribelli ancora per un po' di minuti e proseguiamo con gli approfondimenti, i commenti per la puntata di quest'oggi. Dovremmo avere ai nostri microfoni Nicola del Collettivo Universitario Autonomo di Bologna. Ciao Nicola. Ciao, ciao a tutti e tutte. Allora, con te vorremmo un po' commentare quanto è avvenuto ieri, dopo che l'Alma Mater, l'Ateneo Bolognese, ha inviato a 7 compagni appunto del Collettivo Universitario Autonomo delle lettere disciplinari che seguono una serie di iniziative che si sono tenute proprio dentro l'università in questi ultimi mesi. Un precedente, insomma, piuttosto grave che ci sembra segua anche un po' quelle che sono le linee di tendenza della buona scuola, con presidi e rettori che insomma si vedono sempre più potere accentrato nelle proprie mani e che assumono un po' il ruolo di veri e propri sceriffi, permettendosi appunto di sanzionare, intimidire quanti insomma ogni giorno cercano di costruire qualcosa di differente sia nelle scuole che nelle università. Ma ti lascio subito la parola per raccontarci bene quello che è accaduto e insomma commentare un po' questo avvenimento. Ma sì, ecco, diciamo che per inquadrare un attimo i fatti, sono arrivate a sette compagne e compagni appunto del collettivo universitario autonomo queste sette lettere che indicano l'avvio di un procedimento disciplinare nei loro confronti. E diciamo che la prima immagine che ci è venuta in mente, no? Un po' così anche proprio a tutti e tutte quando abbiamo visto arrivare queste lettere, è stata proprio quella un po' di ciò che avviene anche da un po' di tempo a questa parte, soprattutto poi qui nel nord Italia, anche qui a Bologna abbiamo visto spesso, no? Che è l'attacco, no? Che portano ad esempio le grosse aziende della logistica verso i propri, insomma, nei confronti dei quadri, no? E dei, insomma, degli operai più attivi e impegnati nelle lotte sociali sul posto di lavoro. È stata proprio un'immagine che abbiamo avuto quasi tutti, no? Contemporaneamente, quindi mi piaceva utilizzarla come punto di partenza, no? Perché infatti queste lettere arrivano proprio a seguito di un periodo intenso di mobilitazione che l'Università di Bologna, soprattutto legato ad alcuni percorsi di autogestione, quindi di occupazioni delle facoltà, no? Rivendicando assieme a gruppi di studenti impegnati in attività artistiche e culturali dal basso, no? Quindi a seguito di queste occupazioni si è prodotta intorno agli ultimi periodi invernali uno scontro forte con la direzione qui della facoltà di lettere, che è arrivata a convocare un'assemblea in cui appunto si discuteva proprio di questo, a cui abbiamo ritenuto opportuno, anzi dovuto partecipare. La nostra partecipazione non è piaciuta al consiglio della scuola e quindi sono state recapitate queste sette lettere. Facevo il paragone con i magazzini della logistica e con ciò che riguarda i conflitti appunto nel mondo, insomma, del lavoro qua a Bologna, perché è proprio questo che ci ha ricordato insomma fin dall'inizio, no? Quindi un'università che a partire dalla Gelmini e poi adesso con le nuove riforme, no? Che dalla buona scuola adesso Renzi ha già annunciato la buona università che verrà presentata il prossimo autunno, va proprio in questa direzione, cioè un'istituzione normalizzata in cui ogni esperienza di costruzione di percorsi dal basso non può essere tollerata, ma anzi deve venire appunto repressa e appunto punita anche attraverso queste misure che effettivamente anche poi dalle parole dello stesso prorettore agli studenti dell'Università di Bologna, che si chiama Nicoletti, sono nuove, cioè non sono mai state utilizzate per questioni politiche, quindi è veramente un passaggio che non si era mai visto in questa università, non si era mai visto, insomma, dentro l'alma mater, e quindi rappresenta un punto di svolta anche per la gestione, la governance, insomma, dei conflitti all'interno delle facoltà. Ecco, questo è un po' l'inquadramento generale della questione. Ok, senti, so che avete già lanciato una serie di iniziative già a partire dalla giornata di oggi per appunto rifiutare questo tentativo di intimidazione, appunto mettere sotto gli occhi di tutti la gravità di questo tipo di attacco. Hai voglia di raccontarci un po' cosa state facendo? Sì, diciamo che era già in programma per oggi un'iniziativa di autogestione con un'iniziativa teatrale insieme ad alcuni appunto gruppi con cui collaboriamo qua in zona universitaria a Bologna, ed era prevista, no, in Piazza Verdi, il centro della vita universitaria bolognese, per iniziare appunto ad animare questa primavera anche con appuntamenti di questo genere in piazza. E diciamo che immediatamente però all'arrivare di queste lettere abbiamo deciso di spostare l'iniziativa al rettorato e quindi di costruire una giornata che partirà tra poco alle 16, dove appunto andremo collettivamente al rettorato a presentare delle lettere che in realtà sono richieste all'interno proprio dei provvedimenti disciplinari inviati dal rettore, no? Delle specie di, lui richiede delle lettere di giustificazione che sarebbero da presentare individualmente al rettore. Noi invece andremo lì a presentarle collettivamente con un'iniziativa pubblica in cui appunto rivendichiamo tutto ciò che è successo lo scorso febbraio e insomma tutta la forza dei percorsi di lotta e autogestione degli ultimi mesi. Dopodiché il rettorato appunto sarà occupato fino a sera con queste iniziative appunto teatrali e culturali che andranno avanti appunto fino alla serata. Quindi questo è il primo passaggio e poi naturalmente seguiranno nei prossimi giorni altre iniziative di lotta contro queste misure, perché diciamo che ora diventa veramente prioritario abbattere questo tentativo dell'alma mater, questo nuovo dispositivo che la governance dell'Università Bolognese vorrebbe, diciamo, far diventare la normalità, ecco. Sì, anche perché insomma ci sembra di vedere che nell'Università di Bologna appunto il rettore, insomma l'amministrazione dell'Ateneo abbia deciso per una linea piuttosto dura, che stia cercando effettivamente proprio uno scontro frontale rispetto ai percorsi di autogestione, cosa che in altri Atenei stiamo vedendo meno. Penso insomma al caso di Torino, in cui in questi primi mesi di gestione del rettore Ajani c'è stato appunto un tentativo invece di pacificare, di aprire tavoli di confronto, che ovviamente poi si risolvono in un nulla di fatto, ma che evitavano in tutti i modi appunto un acuirsi delle tensioni, uno scontro frontale. Indubbiamente però un precedente di questo tipo sappiamo bene che poi può anticipare tendenze simili anche nel resto degli Atenei. No, sì, certamente, infatti diventa fondamentale poi opporsi con tutti i mezzi necessari a queste misure, perché perché non diventi appunto una pratica generalizzata non solo qui ma in generale negli altri Atenei. Poi qui c'è da dire che attraversiamo anche un momento particolare, no? In cui insomma tra pochi mesi, anzi tra poche settimane, scadrà il mandato del rettore Dionigi, che è qui proprio agli sgoccioli insomma del suo mandato, e attraversiamo anche un cambio molto forte, no? Anche nell'impostazione della governance universitaria, no? Dove appunto sono in atto processi molto forti di delocalizzazione dell'università rispetto al centro, di costruzione di un grosso campus delle eccellenze, e quindi insomma qui nell'Università di Bologna forse vediamo prima questi processi, perché siamo proprio in un momento di passaggio molto forte, no? Da un'università magari impostata secondo canoni più tradizionali, no? In cui resiste ancora magari la tradizione dell'università di massa, no? Che è la tipica anche soprattutto qui dell'Università di Bologna, mentre stiamo passando verso appunto un tentativo di costruire un'università elitaria, normalizzata, e questo passa sia tramite queste nuove sperimentazioni all'interno della governance, sia appunto con la costruzione fisica di questo campus e insomma con tutta questa serie di processi, ecco. Quindi no, sicuramente è un qualcosa che può diventare generalizzato e insomma può diventare una normale pratica amministrativa dell'università anche altrove, quindi è davvero fondamentale ora insomma opporsi e battere insomma questi tentativi dell'Università di Bologna, ecco. Va bene Nicola, a questo proposito allora ne approfittiamo anche dai microfoni di Radio Blackout per mandarvi ovviamente un messaggio di solidarietà. Vi mandiamo un in bocca al lupo per le iniziative di oggi e dei prossimi giorni, e niente, ci riaggiorneremo sicuramente anche nelle prossime settimane. Va bene, grazie. Un saluto, a presto, ciao. Un saluto, ciao. Allora, questo per quanto riguarda appunto Bologna. Nel frattempo abbiamo fatto le 12:30, quindi siamo un po' agli sgoccioli rispetto a questa puntata. Vediamo ancora cosa riusciamo a fare in questi ultimi 15 minuti. Nel frattempo vi lasciamo in compagnia di un po' di musica. Fuori controllo come schegge, fuori dalla legge, fuori dal copione d'una fiction che non regge. Il gregge volge sordo al precipizio, il lupo paga il prezzo del supplizio, perde il pelo ma non perde il vizio. A comizio dalla rupe, chiama i lupi e le tue lupe, facce cupe che si scrutano nel buio, nel garbuglio delle voci tra gli audaci che scompaiono, nel pantano dove gli angeli si infangano, si infrangono. Tirpide illusioni contro l'ordine dei cloni, contro veti, costrizioni, le opinioni sono carta straccia, ho solo queste braccia, di fronte ad uno sgherro che mi punta il ferro in faccia. Se taccia la mia macchina, conosco già la tattica, schedato dagli sbirri per le idee che metto in pratica. La mia grammatica è materia d'ascensore, materiale conduttore, tramando l'epopea di un disertore, 24 su 24 ore, la rabbia corre dentro le mie vene come plasma, testa bassa nel marasma, come il popolo di Algeri nella casa. calda. Lontano dalle chiacchiere, le luci e la ribalta. Lontano dalla merda, mi guardo dagli infami e resto allerta. Resto rintanato giù in coperta, è l'offerta, la domanda, il mercato che comanda. La mia banda dalla terra di nessuno, nel tempo del digiuno, nel tempio del consumo. Guardo fisso il cielo dall'abisso di Nettuno. Punto uno, non avrai nessun rimorso. Se prendi posizione la questione è dargli corso. Il morso che diventa presa è il palmo che soppesa la dignità di un uomo pure quando sta in difesa. Fanculo la tua chiesa, è d'oro come il manto dell'agnello, è rossa come il sangue sulla lama del coltello. D'accordo che il mio prossimo è un fratello, ma non porgo l'altra guancia se di fronte a un manganello. Tra incudine e martello, l'amore ed il disprezzo. Ho idee pericolose e ne conosco il prezzo. Resto in mezzo, ho un piano sotto banco, in guerra con il branco dei gorilla col mio fianco. Jack and Amy, quanti sotto l'open gong. Jack and Amy, è una botta come il pong. Jack and Amy, sotto terra c'è niente gong. Jack and Amy, prova a battere King Kong. Jack and Amy, quanti sotto l'open gong. Jack and Amy, è una botta come il pong. Jack and Amy, sotto terra c'è niente gong. Jack and Amy, prova a battere King Kong. Nocivi da lenire per risolvere. Ho il bandana in faccia alla Jesse James. Cerco una traccia tra i dischi messi per Names. Ogni facciata riserverei sui frames. Dalla A di Amal Jamal alla Z di Zecchino d'Oro e caccia al tesoro. Ho il suono dei Volvere. Ci sei, ci sono, altre possiamo il rompere. Agguanto un brano a caso, a casa mi attrezzo per la rima e per il pezzo. Prima esibisco il disco al riflesso della luce e si deduce. Niente solchi di traverso, meno male, come il boccone quando vuoi fare presto a mangiare. Milione, stato a porto che ci puoi restare. Fammi toccare, non ci credo, ma alle volte meglio non sfidare. Tiro troppe corde, accordo la mia voce. Preso, musica maestro, ti seguo col verso. Voglio diffondere le note che apprezzo. E il prezzo da pagare sarà pagato dal pezzo finale. Come l'EM attraverso un segnale, alle volte in clip per la voglia di alzare il volume del beat. Le parti quando parti, selecti le hit, a capir. Oh no, oh no, freo, alzo su swing. Ci sto come song, sta a sing. E come a sing, sing, ci stavano a strisce. Ho scelto l'Africa anziché bling, bling e fish. E mo si mi capisce, fra. Questa musica parla per me. Io mi perdo nei giri di un disco. Mi ritrovo, percepisco energie, grazie che esisto. Questa musica parla per me. Io mi perdo nei giri di un disco. Mi ritrovo, percepisco energie, grazie che esisto. Sono analfabeta, ma dalla C alla Z. Qualcuna la capisco, qualcuna la si inventa. Ricampionando il disco che mi tenta. A 33 giri, a 45 cerco quella meta che mi ispiri. Tra pezzi di storia, pezzi di pezzi passati alla gloria. Richiamo la memoria e l'immaginario. Viaggio planetario, ripenso al posto di provenienza originario. Com'erano quei luoghi mi chiedo, ai luoghi comuni non credo. Ma credo che la musica comuni e nonostante Jim Crow fu il flow del ghetto che prese il sopravvento su tanti e su taluni, su più di un talento. Big band, bebop, jazz, hip hop, dalle top e al top fino a sto momento. c'è di più, c'è del sentimento, c'era il blues, c'era il movimento, l'umanità, la gravità della schiavitù, ma nel frattempo in tanti stavano sulla punta dell'iceberg, era solo un'ottava, le altre sette parti il sistema le ignorava, insabbiava, quello che cerco è lì giù, sondo nel profondo di un'anima che soffre di più, che offre di più, ma non sta all'asta, è l'asta la differenza che sovrasta, e come Brothers Rasta farai, sogno il back to Africa, tu che farai, sarà un'utopia, ma lascio che sia, lascio la mia scia scivolare su sta melodia, questa musica parla per me, non mi perdo nei giri di un disco, mi ritrovo, percepisco energie, grazie che esisto, questa musica parla per me, perdo nei giri di un disco, mi ritrovo, percepisco energie, grazie che esisto. Allora 12:39, ultimi minuti a disposizione di Parole Ribelli per questa settimana, come sempre in chiusura andiamo a ricordare un po' di appuntamenti, non vedo segnata in agenda la consueta cena all'asilo di questa sera, ma penso sia confermata come sempre in via Alessandria, e mentre per quanto riguarda l'università e dintorni andiamo a ricordare un paio di appuntamenti, uno questa sera organizzato da Campus Invaders, appuntamento consueto con il Cineforum sociologico, questa sera verrà proiettato Riverside Rendezvous, un documentario prodotto dall'associazione Popai sul Purna Kumbh Mela, uno dei più importanti festival religiosi al mondo, nonché il più grande raduno della storia umana, e l'appuntamento è questa sera alle 19:30, come sempre ci sarà un piccolo aperitivo e poi la proiezione. Tra l'altro, se andate sulla pagina Facebook di Campus Invaders trovate anche le prossime proiezioni delle settimane a venire. E mentre per quanto riguarda invece la biblioteca autogestita del terzo piano, attualmente sprovvista di sede per la chiusura di Palazzo Nuovo, continua però l'appuntamento del Cineforum, che questa settimana sarà di giovedì, la proiezione verrà fatta come sempre davanti al Palazzo Nuovo, nello spazio davanti al terzo piano, e la proiezione di questa settimana sarà dedicata a Nebraska, un film di recente uscita del 2014. E andiamo a mercoledì 6, anzi torniamo a mercoledì 6, proprio qui nella Blackout House dal 19:30, aperitivo Benefit, lotta contro i CIE, ore 21, incontro sul CIE e sulla sua ristrutturazione, presentazione dell'opuscolo I cieli bruciano, su CIE e sulle ditte che collaborano al loro funzionamento. E invece per quanto riguarda la giornata di giovedì 7 maggio, all'asilo occupato alle ore 21, dibattito lotte intermedie e insurrezione con Alfredo Bonanno. Oggi alle 5 al Politecnico, da un gruppo di studenti, è stata organizzata la proiezione del documentario Space Metropolis docufilm. Space Metropolis docufilm sull'occupazione di Metropolis, l'ex Citterio di Roma, sarà presentato da Giorgio De Finis, uno dei curatori del MAM, il Museo dell'Altro e dell'Altrove di Metropolis, che proprio dentro l'occupazione si trova. Allora sicuramente anche in relazione a un po' gli argomenti di cui abbiamo parlato in puntata, nello specifico Torre Vecchia, ma anche diciamo come si configura la composizione dei quartieri popolari, quali sono le strategie, anche perché la rabbia per la mancanza di servizi e per le condizioni di vita che poi si è costretti ad accettare molto spesso a nostro malgrado. Ecco, allora Metropolis è sicuramente un esempio interessante, che ha dialogato anche con appunto la situazione di Tor Sapienza e insomma mette in gioco l'esperienza dell'autogestione in un quartiere difficile, in una nella periferia, in una periferia romana da tempo abbandonata, che invece è stata diciamo un po' riconquistata un pezzetto alla volta grazie proprio a questa occupazione. Allora, al Poli oggi alle 17, proiezione di Space Metropolis. Arriviamo invece nel fine settimana per gli appuntamenti sia più danzerecci che per quelli di mobilitazione. Per quanto riguarda la serata di venerdì 8 maggio al centro sociale Ascatasuna, We Call It Techno, ultima serata elettronica con ai comandi il già sperimentato duo di Polpo e Schulz. Qualcuno ci fa notare, parla come mangi, sì, effettivamente insomma, questo gergo delle serate a volte risulta un po' oscuro. E invece per quanto riguarda la giornata di sabato, ricordiamo il presidio antifascista e antirazzista che si terrà alle 15 a Mirafiori. L'appuntamento è in Corso Agnelli all'angolo con Corso Tazzoli, contro la presenza di Forza Nuova e altri insomma esseri poco gradevoli di quella risma, che cercheranno appunto di fare un presidio come già avvenuto nei mesi scorsi. Quindi sarà importante fargli capire che la loro presenza è quantomeno sgradita a Mirafiori come altrove. E se non siete soddisfatti e non siete riusciti a dare botte ai fasci, dalle 23 al CSA Gabrio in via Miglio 42, gran galà notturno del Lucia Libre. Quattro spettacolari incontri tra i lottatori mascherati più agguerriti, tutto condito da musica messicana e scommesse clandestine. Tutta la serata benefit carovana per il Rojava. E ricordiamo anche che per tutto il fine settimana, quindi dalla serata di venerdì fino a domenica pomeriggio, a Bussoleno torna l'appuntamento con il Critical Wine, che come sempre sarà a benefit per la cassa di resistenza del movimento. Quindi insomma si beve, si mangia bene, si sostiene pure il movimento Notav, quindi che volete di più, andate a farvi un giro a Bussoleno. A Bussoleno. E su questo noi vi salutiamo. Dall'altra parte del vetro fanno pressing per iniziare il GR, ma non avranno insomma non un minuto indietro. Esatto, parole non, ribelli, non un minuto indietro. Noi vi diamo appuntamento come sempre alla prossima settimana, come sempre martedì dalle 10:45 flessibili alle 12:45. Un saluto a tutti e a tutte, rimanete sintonizzati su Radio Blackout, a risentirci martedì prossimo. Un saluto a tutti e tutte anche da Eddie, a martedì prossimo.